Perché è vero quello che ho detto prima, e cioè che chi ci prova poi ci sta male, ma chi non ci prova alla fine sta peggio. Io sono qui di Matteo Caccia. Le 16:07 minuti, è mercoledì 15 giugno del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Il mio primo rifiuto è arrivato che avevo 17 anni. Facevo la terza superiore e lei si chiamava Grazia. Il primo rifiuto è sempre terribile, perché è il primo, ma il mio lo fu ancora di più, perché non fu dichiarato. Lei non mi disse proprio no, mi disse prima di sì. Poi all'ultimo momento mi chiamò al telefono dicendo aveva preso un brutto voto nel tema d'italiano, mi pare, e i suoi non la lasciavano uscire. L'avevo invitata al cinema El Dorado di Novara a vedere un film che non mi ricordo nemmeno più quale fosse. Mi ero fatto prestare addirittura la tessera di giornalista del papà del mio amico Federico, che lavora ancora adesso alla stampa. E mi sembrava fighissimo arrivare al botteghino e farmi dare due omaggi come se fossi stato un giornalista. Insomma, Grazia era bellissima, probabilmente troppo bella per me. Qualche tempo prima le avevo mandato un mazzo di fiori per il giorno del suo compleanno, che poi era anche il giorno di San Valentino, e mi era pure sembrato che la sua reazione fosse stata positiva. Poi quel giorno mi disse la storia del tema e non potevo uscire, e che quindi sarebbe stato per un'altra volta. Io poi in realtà quel giorno al cinema ci andai comunque, ci andai però con Federico e con la tessera di suo padre. Solo che quando dopo il film uscì in piazza, arrivai in Piazza Martiri e vidi che Grazia non era in castigo per il tema, perché era lì con un gruppo di amici. Fortunatamente lei non mi vide e io inizialmente non accettai proprio quel rifiuto, al punto che pensai che forse, boh, chi lo sa, magari alla fine l'avevano fatta uscire, però ormai era tardi per venire al cinema, quindi non mi aveva chiamato. Poi invece il Fede mi guardò e mi disse: no, Teo, è proprio che non volevo uscire con te. Ognuno di noi nella vita ha collezionato dei rifiuti. In amore, ma non solo, in famiglia, al lavoro, in qualche gioco. Che si sia belli, brutti, furbi o scemi, che si sia forti o poveri, ricchi, grassi, magri, tutti almeno una volta si sono sentiti dire no. Poi ovviamente ognuno lo fa a modo suo e quindi tu te lo ricevi in quel modo. Ognuno ha preso un rifiuto in maniera elegante magari, o in maniera becera, con un giro di parole o in modo diretto, facendo finta di nulla o prendendosela a morte. Provate a pensare al rifiuto più difficile che avete subito, o a quello più ridicolo, più lungo, o anche solo a quello più doloroso, quello che vi siete presi come una portata dritta sulla faccia. Ecco, provate a pensarci, perché io oggi sono qui. 800240024 per chiamare in diretta, oppure 349-238-6666 per mandare un SMS. Qualsiasi sia il vostro rifiuto, come quello di Mary che ha scritto sul profilo Facebook: rifiutato all'ingresso di una discoteca perché è troppo vecchio. Scusi, stasera lei non è in target. Che amarezza, mi scrive. Rosaria, il peggior rifiuto, e questo è un genio, Rosaria, questo te lo devi tenere stretto, guarda, meriti qualcosa di meglio. C'è ancora gente che va in giro a dire meriti qualcosa di meglio. Scusate, ho strappato il foglio. Nina, questa è brutta. Ho preso una decisione. Non hai più niente da aspettare. Scusa Nina, però è doppiamente orribile questo, perché lui finalmente una decisione l'ha presa, ma soprattutto tu stavi aspettando, quindi l'idea è che questo è sposato, c'hai figli e ti dice: guarda, non ti preoccupare, dammi il tempo e quando decido la lascio. E poi arriva e dice: ho preso una decisione. Sai cosa? Stavi aspettando tu, ecco, non aspettare più. Nina, con il rispetto che è dovuto chiaramente alle persone che soffrono per i rifiuti, Pierluigi, quando mi hanno detto vivere con te, ma potrei odiarti. Sashi, quando a 20 anni volevo andare a fare l'Interrail per 3 mesi e mia madre mi ha costretta ad iscrivermi all'università. 800240024, il peggior rifiuto della vostra vita, che sia recente o che sia stato anni fa, che sia in amore ma non solo. Vorrei leggervi un altro pezzo di un brano che ho deciso non sarà nella scaletta e nel copione della serata di giovedì prossimo, 23 giugno alle 21. La serata è ufficialmente sold out, significa che i posti sono esauriti. Detto questo, a alle 21 il 23 giugno, solo quelli prenotati, altrimenti io esco da questo studio e Elena e Luisa e Elisa mi affettano come se fossi una polpetta. Io sono qui, @radio24.it. Insomma, in quella serata, cioè nella serata del 23 giugno, nel live, ho deciso che non metterò un pezzo di una puntata che molti mi chiedevano, ma che non posso mettere, altrimenti facciamo notte e diventa noioso. Noi vogliamo solo fare le cose quando ancora la gente ne vorrebbe ancora, andare via un attimo prima. E quindi questo pezzo non ci sarà. Insomma, io alla fine quel vetro lì non lo ruppi. Per un istante rimasi immobile, sentendo la mano piena di quel sasso pesantissimo, come non mi era sembrato quando l'avevo raccolto. Poi lo lasciai cadere e corsi verso l'uscita. Ecco perché nella lista dei miei desideri ce n'è uno che è quello più assurdo, forse, che è rompere tutti i vetri delle finestre al piano terreno della casa dove sono cresciuto. Cadeva un misto di pioggia e di neve il 1° di gennaio a Armentino, ma la mia famiglia era tutta schierata nel cortile. E non si sa esattamente come, ma quella che sembrava un'idiozia improvvisamente si era trasformata in una piccola missione da compiere. Al punto che anche negli occhi di mio padre vedevo nitidamente curiosità, perfino un briciolo di invidia nei miei confronti. Più che per il gesto in sé, proprio per la possibilità che io mi stavo concedendo di mettere in atto un gesto così logico eppure così significativo. Sono entrato, ho tirato su tutte le tapparelle delle finestre in modo da avere la maggiore superficie possibile a disposizione. Poi sono uscito di nuovo nel cortile, ho messo il pallone proprio sopra al tombino, nel centro dello spiazzo. Ho alzato gli occhi e ho visto i miei zii, affacciati al balcone, in tuta, che sorridevano mentre il vapore gli usciva dalla bocca. Ho pensato a Wesley Snyder, al modo in cui lui avrebbe calciato quel pallone per indirizzarlo esattamente in mezzo al perimetro degli infissi. Ho fatto un respiro, ho preso la rincorsa e ho calciato. Era il 3 gennaio 2011, Wesley Snyder era ancora un giocatore dell'Inter, era la puntata numero 86, era quella in cui realizzavo uno dei miei desideri dello scorso anno, che era rompere tutti i vetri di casa dei miei, poi glieli ho ricomprati. Insomma, ecco, questa che avete sentito non ci sarà. 800240024 349-238-6666. Per tutti i peggiori rifiuti che avete ricevuto nella vostra vita, oggi non si parla di un mio rifiuto, ma del povero Ettore. Mi ricordo che quando ero un bambino, alle elementari, mi piaceva una biondina. Si chiamava Silvia Presley. A Ettore invece piace Ilenia, la sua compagna del corso di tennis. Per sua fortuna vanno anche a scuola insieme, così può vederla tutti i giorni. Quando me l'ha raccontato è diventato tutto rosso, perché i bambini capiscono subito quando certe cose sono importanti. E Ilenia non se lo filava di pezzo, era chiaro. Lei è la bella della scuola. È la bella del corso di tennis, la bella del catechismo, la bella del corso di nuoto. Ilenia è l'incubo di tutte le bambine. In qualche modo anche di tutti i bambini. Sì, perché provare a fare colpo su una così è difficile. E allora tutti ci pensano, ma nessuno ci prova. E chi ci prova ci rimane male. Perché le ragazzine fatte così lo sanno che possono avere quello che gli pare. E allora sputano su tutto. Quando una nasce e cresce così, poi diventa misteriosamente la donna che tutti vorrebbero. Non ho mai capito esattamente come funziona, ma è chiaro che tutto questo potere dà la testa alla fine. Fatto sta che Ettore non sa nulla di tutto ciò e i suoi sono molto concentrati su altre cose, tipo l'alimentazione biologica, e non sono attentissimi a quanto il loro bambino stia crescendo e a quanto si guardi in giro. Pensano che basti togliergli la televisione per eliminare il pericolo che diventi come tutti gli altri. Poi, come se diventare come gli altri fosse un male. A volte ci sono forme di snobismo che mi sorprendono per capacità di innovazione. Quindi, insomma, Ettore rimane un bambino innamorato, per quanto un bambino possa essere innamorato, con un sacco di domande e nessun consiglio. E io chi sono per negargli una mano? Alla fine ho una fidanzata, sono una persona per bene, più o meno. E so come ci si trova a desiderarne una donna che nemmeno ti guarda. E so quello che avrei dovuto sempre fare e nessuno mi ha mai detto. Provarci. Perché è vero quello che dicevo prima, e cioè che chi ci prova poi ci sta male, ma il fatto è che chi non ci prova alla fine sta peggio. Ettore era venuto qualche giorno fa con un bigliettino scritto da lui e con un disegno colorato. Mi aveva detto che erano per lei. Il disegno raffigurava una casa su una collina, credo almeno, con il sole e tutto quello che i bambini mettono in un disegno. Perché Ettore nella sua testa aveva già messo su famiglia con Ilenia. Io allora gli ho detto che queste cose spaventano un po' certe bambine e che forse invece avrebbe dovuto essere un po' meno melenso, un po' più diretto, portarle un bel regalo e un fiore. E poi provarci, perché, e vi giuro che gliel'ho detto, la vita non aspetta. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Ora io lo so che adesso penserete che io sono un cretino, e in effetti un po' lo penso anch'io. Cioè, dire a un bambino di 7 anni una frase tipo la vita non aspetta è una roba da dementi. Perché quello è invece proprio l'unico momento in cui quella frase non è vera. La vita lo sta proprio aspettando, Ettore. C'è un tempo per tutto e lui doveva solo fare robe da bambini, disegni e parole scritte male su un foglio. Come spesso succede, stavo applicando i miei schemi di adulto a un bambino. Non sono l'unico che lo fa, ma per me era la prima volta. E allora ho chiesto a Ettore più informazioni sui Legna, come se fosse una donna da conquistare e non una bambina coi capelli lunghi e lo sguardo altero. E lui mi ha detto, ah, lei va matta per i flauti del Mulino Bianco. Perfetto. Allora fai così, domani gli porti una bella scatola di flauti del Mulino Bianco e una rosa rossa. Ettore, cadrà ai tuoi piedi. Cioè io praticamente stavo facendo la strategia d'amore a un bambino. Che se lei anche fosse, mettiamo, caduta ai suoi piedi, cosa sarebbe successo? Lui sarebbe venuto da me a chiedermi che cosa ci dovesse fare con una bambina che gli era caduta ai piedi. Che io non ho figli, quindi non saprei cosa dirgli. Io le cose serie le lascio agli altri, penso solo a quelle divertenti. Dovrebbe saperlo anche Ettore, no? Ormai mi conosce da un po'. Comunque, alla fine, ieri è andato al tennis con un pacco di merendine e una rosa. Ha mentito a sua madre dicendo che servivano per una recita, credo. Io gli avevo suggerito il momento giusto per dare ai Legna il regalo e due dritte sull'atteggiamento da avere. Cioè, serio ma non distaccato, gentile però non sdraiato, sorridente ma non da sembrare scemo. Insomma, doveva essere un uomo. E poi ieri sono andato a prenderla al tennis dopo la trasmissione. L'avevo detto a sua mamma che ci sarei andato io, così potevo vedere com'era andata. L'ho visto arrivare con la testa bassa, la racchetta in una mano e il pacco di flauti del Mulino Bianco nell'altra. E cos'era successo? È arrivato, era silenzioso. Io l'ho salutato, poi mentre ci incamminavamo gli ho chiesto com'era andata. Lui alza la faccia e mi fa vedere un segno impercettibile, però si intravedono 5 ditine sulla guancia, la destra perché Legna è mancina. Allora mi abbasso e gli chiedo che è successo. Lui le aveva dato la rosa e mentre le stava per dare i flauti, serio ma non distaccato, lei si era punta con l'unica spina che non aveva fatto togliere. E lui aveva detto che non era niente, che con i flauti sarebbe passato tutto, grande Ettore. Lei però aveva detto che invece il sangue le faceva impressione. Lui le aveva detto che bastava un cerottino e lei gli aveva dato un ceffone dicendo che i flauti le facevano schifo e preferiva la focaccia. Ma non era finita lì. Lei gli aveva anche detto che faceva schifo a giocare a tennis e che lo sapevano tutti che aveva passato un turno nel torneo solo perché suo papà aveva dato dei soldi al maestro per farlo giocare con una bambina del corso dei principianti. Insomma, Ettore è tristissimo e io penso che sia colpa mia, ma che lui comunque è una roccia e non piangerà. E invece comincia a singhiozzare, come se gli fosse morta la cavia. E io lo prendo in braccio e lo consolo un po'. E mi piace tenere il peso morto di questo ragazzino che avevo mandato allo sbaraglio. Ci guardavano tutti, magari pensavano anche che fosse una scena tenera, però io avrei preferito si facessero tutti gli affari loro. Gli passa un po', finalmente, rimetto Ettore a terra e gli propongo di dividerci la scatola di flauti. E lui accetta. Andando verso casa praticamente la finiamo. Ne avevamo anche bisogno. L'ho riportato alla sua mamma, come se niente fosse, e l'ho salutato. E poi mi sono accorto che troppi flauti fanno male allo stomaco. E lì è iniziata la mia lunga notte. Forse la giusta punizione. Concerto dei Nomadi, avevo 15 anni, mai baciato nessuno. Le mie amiche chiedono a un tipo, vuoi baciare la mia amica? No, mi vergogno ancora. Ciao Elisa. Elisa, però sei andata al concerto dei Nomadi. Te lo sei un po' voluta anche tu. No, va bene, non apriamo la parentesi sui Nomadi. È arrivato un messaggio di una fan, credo, dei Nomadi, che era molto adirata perché io un giorno ho detto che a Radio 24 non si potevano passare i Nomadi. Non è vero, non c'è questa policy a Radio 24 che non si possono mandare i Nomadi. Semplicemente noi non mandiamo i Nomadi. Poi lei diceva anche, se non ricordo male, il messaggio a riprova del fatto che i Nomadi sono un grande gruppo, cioè che fanno 200 date all'anno. Beh, anche Wanda e gli Ostarluzzi fanno 200 date all'anno. 800240024, il peggior rifiuto della vostra vita, qualunque esso sia. Stefano, virgolette, Stefano, non sarò io la madre dei tuoi figli. E non le avevo neanche chiesto niente. È stato un rifiuto preventivo. Andiamo da Paolo, Ascoli Piceno. Pronto Paolo? Eccoci qua. Ciao, come Matteo, stai? Buonasera. Bene, grazie. Buona serata anche a te. Dove sei, Paolo? Allora, sentendo questa trasmissione di oggi, sì, io sono mi qui. Mi ha fatto riferimento un episodio della mia gioventù quando mi trovavo a Rimini in vacanza nel 76. Quanti anni avevi, Paolo? 29. E adesso ne hai? 63. Se la matematica non è un'opinione, giustamente. Non è un'opinione. Eri a Rimini nel 70. Com'era Rimini nel 70? Era brutta come adesso? No, era bella. Era bella. Poi chi è che ha detto che è brutta adesso Rimini? Al contrario, adesso sono anni che non ci vado. È una bella città. Assolutamente. Bella città. Ha un centro storico e anche molto. I sono cordialissimi. Ha un bellissimo centro storico anche. Sì, sì, sì. Benissimo, dicevamo, siamo allora, a Rimini. Allora, quella sera vado in una discoteca. Sì. E sarà stato un caso, non so, una congiunzione astrale negativa. Ho rimediato 13 rifiuti di ballare con le ragazze che erano in discoteca. Come 13 rifiuti? Al tredicesimo me ne sono andato perché dico questa non è sera. Ma scusami, perché erano balli di coppia? No, beh, allora si ballava lo shake, insomma era un modo per tentare l'operazione rimorchio, no? No, beh, quello è chiaro, però volevo capire che tipo di balli si ballavano nel 70, detto nel 76 no? Erano tutti i balli che in italiano Renzo Arboli definiva svelti. Gli svelti, si facevano in due, quindi c'era proprio la pratica dell'andare, ciao, vuoi ballare con me? Sì, esatto, ma no, non si parlava così, scusi, lei vuole ballare con me perché mica era come adesso che io in discoteca non vado, ma... Cioè, ci si dava del lei? Sì, è una questione di buone maniere, insomma, io nei confronti... Paolo, forse eri troppo educato, probabilmente. Ah, che devo essere più villano, ma non ho rinunciato ai miei valori. E... Sei sposato adesso, Paolo? Adesso sono sposato. Come gliel'hai chiesto? Scusi? Ma quello è stato un colpo di fulmine in un aeroplano. Stavo rientrando dalla Cina, dove ero andato per un viaggio di lavoro. Ho incontrato questa ragazza australiana e è stato un colpo di fulmine bilaterale. Scusami, e adesso vivete ad Ascoli Piceno? Sì, esatto. Cioè, abbiamo 3 figli. Di che parte dell'Australia è lei? Melbourne. E quindi vi capita di andare a Melbourne, immagino? Beh no, ci va lei perché io sono andato un paio di volte e non è così entusiasmante. No? Per me, no. Ah, ok, perché invece tutti parlano dell'Australia come di un posto, uno dei ma posti in cui è bello vivere. Ma è un paese bellissimo, sicuramente, ha un sistema sociale poi formidabile, ma poi è un po' monotono. Paolo, senti, che cosa fai nella vita? Sei in pensione? Nella mia vita c'ho una piccola azienda che esporta componenti per la calzatura. Ah beh certo, Ascoli Piceno, Marche e siamo a casa. Paolo, ti ringrazio moltissimo. Prego, buona ti auguro una buona giornata. Ciao, grazie. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Nella foto di oggi siamo in una foresta di bambù. Sembra uno di quei film giapponesi con gente che fa tai chi e karate nell'aria e foreste di bambù tutto intorno. In mezzo a questa foresta di bambù c'è una ragazza con i capelli lunghi e una sciarpa bianca al collo che accarezza una canna di bambù. Pilar Saavedra, 35 anni. Giardini botanici e terme dal sapore antico, acque sigiane e boschi di bambù gigante. Sono le terme di Stigliano e io sono qui. Le terme di Stigliano. Aspetta un secondo, perché poi facciamo la brutta figura. Terme di Stigliano. Aspetta, no, non mi pare provincia di Roma, ragazzi. Stigliano è... Guarda, è in Lucania, è in Basilicata. Non sono le terme. Benissimo. Allora, Viola Bottone mi dice che le terme di Stigliano sono nel Lazio, vicino a Roma. Invece Stigliano è un paese che si trova in Lucania, giusto? Mi piace chiamarla con il nome antico Lucania, perché il mio amico Roberto Palermo, che è della Basilicata, la chiama sempre Lucania. Semplicemente mi piace di più. C'è qualcuno che manda a quel paese l'ascoltatore di prima perché ha detto che l'Australia è noiosa, e Francesco da Milano, ma è nato a Melbourne. E poi, grandi rifiuti della vostra vita. Scaricato via SMS dalla squadra di calcio dopo aver effettuato tutta la preparazione estiva. Mestizia. Dopo 4 anni in attesa di una risposta, l'ho avuta. Sei pesante. Lorenzo, io credo che se tu stai 4 anni in attesa di una risposta, proprio hai la pesantezza dentro di te e devi alleggerirtene un po'. Respinto a 17 anni all'ingresso dello Stadio Olimpico domenica 5 maggio 2002. Non ricordo esattamente questa data, perché mi avevano venduto un biglietto falso. Immaginati come stavo. Boh, non mi hanno mai rifiutato. Guarda, non sarà vero. Se è vero, sei veramente messo male. 800240024, rimaniamo sui colloqui di lavoro. Andiamo da Maurizio in provincia di Como. Pronto Maurizio? Ciao Matteo. Ciao, come buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, come stai? Abbastanza bene, non c'è male. Hai un po' di raschietto alla voce però, Maurizio, mi sì, sbaglio? Un po', sì, ho preso un po' di freddo, quindi. Allora, facciamolo insieme così. Okay. Benissimo. Allora, colloquio di lavoro. Sì, è successo qualche anno fa. Mi era venuta l'idea di ritornare a lavorare al mare in Emilia Romagna. Tu che lavoro fai? Faccio lo chef di cucina. Ok. E ho trovato su un sito specializzato un annuncio di un albergo anche abbastanza grande che cercava appunto tutto lo staff. Ho mandato il mio curriculum e mi hanno invitato a un colloquio, quindi hanno esaminato la cosa, mi è arrivata la mail, venga giù, facciamo un colloquio così, e quando sono arrivato là era il mio turno, sono entrato in questo ufficio, abbiamo parlato una decina di minuti, poi mi hanno detto, ci dispiace ma lei per il nostro albergo è troppo avanti, è troppo sei bravo, troppo preparato. Non è la prima volta che capita, è arrivato anche un messaggio ma che cosa, diceva questa cosa. La cosa brutta è che ho fatto 400 km per andare a fare questo colloquio. Senti, ma tu sei ancora uno chef, Maurizio? Sì, sì, lo sono ancora. E dove lavori? Io adesso lavoro sul lago di Como. Senti, tu hai come funziona? Che gli chef hanno un piatto loro particolare o si mettono a servizio del menù, decidono loro? Secondo me, allora dipende un po' da ognuno di noi. Ognuno va a lavorare in base alla zona dove va a lavorare e deve essere logicamente preparato per quel tipo di cucina. Però negli alberghi, soprattutto dove si lavora con i turisti, bisogna essere pronti a un tipo di cucina abbastanza internazionale. Senti, ma ed è vero che la vita in cucina sembra una battaglia? È abbastanza, è comunque molto dura perché è molto caldo, si ha a che fare con, soprattutto negli ultimi anni, con persone di tutto il mondo, perché in brigate di 10-12 persone magari si è 5 o 6, diciamo, di 5-6 provenienze, chi dall'Italia, chi dalla Germania. Cioè, nel senso che ci sono problemi con la lingua anche? Ma anche con la lingua, sì, però insomma si cerca di essere abbastanza poi flessibili perché bisogna. Ci vuole molto spirito di adattamento. Maurizio, ti lascio al tuo raschietto e al tuo lavoro. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Allora, mi chiedono chi sono Wanda e gli Starluzzi. Wanda e gli Starluzzi erano un gruppo che veniva a suonare al Varallino, dove c'erano delle giostre vicino al mio paese. E lei aveva i capelli biondi ossigenati e gli Starluzzi era gente che suonava. Erano un gruppo di liscio, insomma. Se ricercate su internet Wanda e lui, mi pare si chiamasse Elio Starluzzi. Nulla a che fare con i Nomadi. Vabbè, mi guardano come se fossi un cretino. Facevano 200 date anche loro. Andiamo, Silvia, dalla provincia. No, da Livorno proprio. Silvia. Sì, ciao. Ciao, grazie ciao, per essere qui, Silvia. Senti, a 17 anni, non capisco esattamente la dinamica. Cioè, tu avevi 17 anni, lui ne aveva? Sì. Un po' di più, tipo 20. Tipo 20, vabbè, però sempre di qualità. Oh. Allora, non me lo ricordo ora, sì, avrò avuto 19, 20. Quanti ne hai ora, Silvia? 35. Cioè hai fatto la tua strada, esattamente il doppio. Ha voglia. Senti, allora tu 17 anni, lui 20, e a te lui piace? Sì. Giusto? Sì, esattamente. Ok, e ci provi tu o lui? No, lui. Ci prova lui, però poi come funziona? Poi mi ha fatto un paio di domande, poi mi ha detto no, ma te sei una del primo stadio, di quelle un po' così, io non ho più voglia di lavarmi le mutande e va bene, ciao. O me la dai entro il 14 di febbraio oppure non se ne fa di niente. Ma scusa, e tutto questo accadeva a Romito? No, accadeva a Tirrenio. Senti, ma perché Silvia? Scusami, ma quando chiami nei livornesi io li terrei tutto il tempo. Ma perché bevete l'estate tutto il giorno voi a Livorno? Io questa roba non riesco proprio a mandarla giù. Che la Ferrero produce praticamente pare litri e tonnellate di estate solo per Livorno e nei cestini della città. Io l'ho visto con i miei occhi. Sono pieni di, come si chiama, il bricco? Sì, il bric. Il bricchino dell'estate. Sì. Si preferisce la Coca-Cola, però va bene anche l'estate. Senti Silvia, hai mai più preso dei no perché non la davi oppure hai cominciato a darla a destra e manca a quel punto? No, ho ricevuto anche una serie di no perché non la davo. Ma adesso c'hai uno straccio di fidanzato, hai una vita regolare? No, sono sposata, con figli, poi l'ho data finalmente. A uno solo. Cosa fai nella vita, Silvia? Impiegata. Ma che tristezza, perché lo dici così? Perché 5 minuti fa mi hanno dato della deficiente. Al lavoro? Quindi, sì, sto tornando al lavoro, sono un po'... Ah, sei nella fase, adesso mollo tutto. Bravo, Beh, quella fase lì poi dura di solito un paio d'ore, poi magari arrivi a casa, ti sfoghi con tuo marito, dici no, perché? Lui dice sì, vabbè, ma porta pazienza. Infatti, di sicuro. Ti bevi un'estate e passa la paura. Sola. Silvia, infatti. Grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo, no, ce la facciamo? Sì, al volo, dai, 30 secondi, provincia di Udine da Giuseppe. Pronto, Giuseppe? Ciao Matteo, bentrovato. Ciao, grazie per essere qui. Senti, anche qua parliamo di lavoro, giusto? Concorso per primario? Sì, risale a 10 anni fa, ma mi è rimasto come un grande rifiuto. Perché ti dissero di no? Testualmente la motivazione fu che la mia esperienza professionale e il curriculum erano troppo ricche per il loro ospedale. Di che cosa, di che settore parliamo, Giuseppe? Chirurgia maxillofacciale. Quindi sei un chirurgo plastico? No. No, ma se lo facciale ha a che fare con il naso, bocca, denti, faccia, naso. Oh, ok, ok. Ecco, e adesso qua. Era un rifiuto particolarmente amaro per la motivazione. E adesso dove lavori? Ah, sono in pensione, sono diventato primario l'anno dopo in un altro ospedale e ho concluso la mia carriera da pensionato. E però quel rifiuto. E però ti è rimasto qua. E sei andato là dove dicendo. Cioè, comunque qua mi hanno fatto primario, voi invece. Ah, guarda. Non avevo assolutamente nessuna voglia neanche di tornarci. Che sai, nel nostro ambiente i potenti direttori generali hanno veramente delle spalle molto molto lisce, puoi dire loro quello che vuoi. Giuseppe, grazie mille, buona giornata. Grazie a voi, ciao. Buona giornata a voi. Ciao, alla prossima, ciao. Grazie. Il racconto che vi racconta, io sono qui, @radio24.it. Ore 6:30, sveglia. Doccia, barba, vestiti, colazione, denti, tutto ok, perfetto. Valigia, borsa con PC, saluto tutti, salgo in macchina e vado verso l'aeroporto. Sono le 7:30, l'aereo è alle 8:50, giusto in tempo. Non trovo parcheggio se non in capo al mondo. Arrivo di corsa al banco del check-in che sono già le 8. La signorina mi dà la carta d'imbarco, gate 13 e io vado, anzi, corro. Al controllo bagagli, orrore, c'è una coda che sembra uno sbarco di profughi. Sono in ritardo ma mi metto in fila, ma la fila non si muove, inizio ad essere impaziente, chiedo scusa, scusate, ho il volo tra meno di 30 minuti, scusate, ma tra 5 minuti imbarcano e non posso fare tutta la fila. Passo avanti, arrivo ai banchi di controllo dove prima del metal detector una gentile signorina mi chiede un documento e la carta d'imbarco. Scusi, ma lei vola con Ryanair? Sì, vado a Madrid. Mi spiace signore, ma non può salire con due bagagli a mano, deve mettere la borsa piccola, quella del PC, dentro l'altra. Oh merda. Grazie a Marco Vettori che ha inviato questo racconto. Io sono qui, @radio24.it. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni e a Stefano D'Andrea. L'appuntamento per domani alle 16 o live giovedì prossimo alle 21. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi? Dove siete?